ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia, considerato dalle cosche un pochino il simbolo di questo stato da combattere, da colpire. Lei vive in sostanza blindato. Ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No. A Capaci, via D'Amelio, io c'ero, e sotto quelle bombe ho lasciato un po' di me. Ricordo stavo piangendo quando spensi la TV. Quel sangue era già annunciato, era previsto, qualcuno l'aveva calcolato. Giovanni e Paolo, agenti della scorta, uomini di Stato, Stato traditore. Giovanni e Paolo, condannati a morte, l'hanno stato nello Stato, Stato senza onore. Lo sapevate, lo sapevate certo, che qualcuno vi avrebbe tradito. Lo sapevate, era preventivato, che qualcuno vi avrebbe fermato. Lo sapevate, delle sporche talpe, infiltrate nei tribunali. Lo sapevate, che se si resta soli, non c'è più speranza, non c'è più salvezza. Mafia nello Stato, mafia dello Stato, mafia dei partiti, mafia dei pentiti, mafia nei governi, mafia nelle strade, mafia nelle banche, mafia nei comuni, mafia nelle stragi, mafia nel silenzio, mafia nell'assenza, mafia nell'assenso, mafia negli appalti, mafia nei giornali, mafia nella droga, mafia negli affari, mafia nazionale, mafia regionale, mafia immigrazione, mafia corruzione, mafia parlamento, mafia giuramento, mafia commissioni, mafia omissioni, mafia dei servizi, mafia deviazioni, mafia dei vistaggi, mafia omissioni, mafia imputazioni, mafia precisioni, mafia le tangenti, mafia distorsioni, mafia del lavoro, mafia sindacati, mafia compromesso, mafia di reati, mafia le migliaia di vittime accertate, gridano giustizia. Ma gli eroi sono fatti così, sono spinti da una forza divina che li aiuta a lottare, a combattere contro tutti, contro. E nessuno potrà mai più fermare il loro grande esempio di vita che continua a vibrare, per non dimenticare. Conseguenze professionali gravissime, e forse questo io l'avevo pure messo, almeno disse l'opinione pubblica lo deve sapere, lo deve conoscere. Il pullo antimafia deve morire davanti a tutti, non deve morire in silenzio. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano, e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave, e che si può vincere non pretendendo eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. No, io non intendo questo perché quando volevo poco fa la mossa alla criminalità mafiosa è delegata soltanto alla magistratura e alla forza, perché tutti i piedi di un fatto cause, a fondo, in questo particolare, mentalità del criminale, è chiaro che eliminando il magistrato che si occupa di mafia o il poliziotto che si occupa di mafia, ha eliminato l'unico nemico che aveva. E naturalmente in questo il magistrato e l'appartenente alle forze dell'ordine si trova estremamente sovraesposto e quindi poco protetto. E non sono chiacchiere, perché se noi facciamo il conto di quanti magistrati e di quanti poliziotti sono stati uccisi dall'80, ma anche prima, si cominciò nel 1970 con il primo delitto eccellente, e il numero diventa incredibile, e ti assicuro che personalmente, nonostante che fossero tutti miei più che amici o collaboratori, più che collaboratori erano quasi tutti miei amici, questi che sono stati uccisi, oggi diventa estremamente difficile per me ricordarli tutti. È chiaro, non erano protetti loro e non è protetto nessuno che si occupa di organizzazione, di questa organizzazione. Se noi proviamo a immaginarci che cosa sarebbero oggi, quale sarebbe l'efficienza delle forze di polizia e della magistratura in Sicilia se fossero ancora in vita il procuratore Gaetano Costa, se fosse ancora in vita Ciocco Chinnici, se fosse ancora in vita nella polizia di Cassarà, se fosse ancora in vita nei carabinieri il capitano Basile o il giudice della Roma o altri. Se noi proviamo a immaginarci che cosa ha significato azzerare questa massa enorme di esperienze, di capacità investigative, di volontà, di lavoro e di incisione sul problema, se noi proviamo a immaginare questo, dobbiamo trarre purtroppo la negativa conseguenza della mafia.